Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Guarda che importante è lo slogan scelto per la Giornata Mondiale della Vista, che come ogni anno si celebra il secondo giovedì del mese di ottobre. Uno slogan che vuole sottolineare con forza il ruolo centrale della prevenzione. Obiettivo Salute, il professor Francesco Bandello, primario dell'unità di oculistica dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e ordinario di oftalmologia presso l'Università San Raffaele. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professor Bandello, guarda che importante, è una raccomandazione da tenere a mente tutto l'anno. Sono assolutamente d'accordo. Io direi che la raccomandazione da lasciare a tutti i nostri ascoltatori è di recarsi dall'oculista indipendentemente dalla presenza dei sintomi. Questo perché quando ci sono i sintomi visivi, quando esistono già dei problemi alla vista, in alcuni casi si è in ritardo. E l'unico modo per essere sicuri di affrontare questi problemi nel momento migliore per ottenere i migliori risultati terapeutici è quello di farsi vedere quando i sintomi non sono ancora presenti. È pertanto importante avere un calendario mentale, no? degli appuntamenti irrinunciabili, che io sintetizzerei così. Prima di tutto il bambino, prima che vada a scuola, deve essere stato visto da un oculista. Questo perché se il bambino viene visto dopo essere andato a scuola, spesso alcuni problemi sono diventati irreversibili. Un secondo momento importante è al momento della pubertà, quando in genere si cresce e si sviluppano dei difetti di vista, come per esempio la miopia. Un terzo momento è quando si raggiungono i 40 anni, si comincia ad essere presbiti, c'è bisogno degli occhiali per vicino. Bene, in quel momento si può misurare la pressione oculare ed evitare che ci siano dei glaucomi misconosciuti che possono dare dei drammi. E poi quando si è più avanti negli anni, sicuramente le visite oculistiche devono diventare più frequenti, perché sono tante le malattie che in età avanzata diventano più frequenti. Una per tutte è la cataratta o la degenerazione maculare legata all'età. Professor Bandello, lei ha sottolineato l'importanza di effettuare i controlli anche in assenza di sintomi, ma quali sono i campanelli d'allarme, i segni, i sintomi che dobbiamo imparare a conoscere per non sottovalutare? Cominciamo dal bambino, un bambino che tende a guardare in una posizione strana, perché si mette di traverso nell'osservare le cose, perché avvicina molto il testo o perché si tiene molto lontano dal testo, o un bambino che riferisce dei mal di testa frequenti, lacrimazione, arrossamento degli occhi. Questi sono tutte cose, tutti i segnali che devono essere adeguatamente tenuti in considerazione e portare il bimbo dall'oculista. Poi il bambino, che è il ragazzo che ha 13-14 anni, comincia a dire che non vede più e che a scuola ha difficoltà a vedere la lavagna. E poi ancora quando si comincia a tenere più distante il libro di testo perché non si riesce a leggere normalmente, o peggio ancora vedere le immagini deformate o vedere meno di quanto si è abituati a vedere. Tutti questi sono campanelli d'allarme a cui non si può non attribuire importanza. Grazie professor Bandello per essere stato con noi. Il professor Bandello però lo ritrovate tra poco sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, perché è protagonista della nostra video intervista. Professor Bandello, allora noi ci vediamo a proposito di Giornata Mondiale della Vista tra poco. Intanto vi auguro una buonissima giornata. Grazie al professore. Grazie. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it